Credo che in questo caso il calcio sia veramente uno sport obsoleto, perché è l'unico che, nonostante sia lo sport più praticato al mondo, con probabilmente gli introiti maggiori, è rimasto a regole e applicazioni tecnologiche inesistenti, quindi forse è l'unico sport che ormai non usufruisce di strumenti che potrebbero poi, ahimè, io sono juventino, potrebbero anche segnare il risultato o un campionato, falsare appunto il risultato di una partita. Senti, da questo punto di vista, che effetto ti ha fatto vedere quel gol fantasma di Montari? Ma non lo so, mi sembra veramente un'assurdità, ecco. Era un gol straregolare in un momento in cui il Milan comunque stava giocando meglio della Juve, e chiaramente la partita sul 2-0 probabilmente sarebbe stata diversa, però non è la prima volta, è successo tante altre volte, a volte è successo a favore, a volte è successo contro, ma basterebbe poco, ecco, per la situazione del gol non gol. Ecco.